Sare lezione ste una miniera, cum paparmo signore se vicario. Santo sono tutto impresario, chi ha tu un'arte una. Popolo ignorante, considera i te vroto te danzo. Madonna se Cristo son sosi sfruttatore Johnson.